Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Puntuali alle 15 come ogni sabato con il Sabato del Villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Tre ore insieme, la terza ora dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. I numeri per contattarci, semplicemente 349-238-6666. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, ma anche per i vostri messaggi WhatsApp. Per Twitter è molto semplice, il mio account @MartaCagnola o l'hashtag #ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora del Sabato del Villaggio. Beh, l'appuntamento con il gastronauta, la tendenza è straordinario, friggere quanto mi piace. A tenerci compagnia però questo pomeriggio come filo conduttore i rapporti tra genitori e figli. Sì, è la festa del papà, è il 19 marzo, auguri a tutti papà, ma noi parliamo in generale di famiglie, genitori e figli. Con Enrico Pagliarini parleremo di figli e sicurezza nelle tecnologie, ma parliamo subito di famiglie anche con una nuova fiction. Quando sei figlio giuri che non diventerai mai come i tuoi genitori. Papà, io ti ammiro, però non sarò mai come te. Ma una volta diventato genitore sarà tuo figlio a giurare che non diventerà mai come te. Tu non vuoi una figlia, vuoi una fotocopia! Ti distrai un attimo e sei finito dall'altra parte della barricata. E qualcun altro canta la tua canzone. Hai sogni. Sogni. Allora, immaginatevi, domenica sera, relax, divano, copertina ormai leggera perché è quasi primavera. Io non lo so, a me la fiction sul divano la domenica sera piace sempre tantissimo. Da questa domenica ci sarà Come fai sbagli, quindi da questa domenica niente telefonate, niente messaggi, non citofonatemi in prima serata perché sto guardando sicuramente Come fai sbagli. Due famiglie, una più tradizionalista, una più progressista. Noi abbiamo le due mamme al telefono. Una è Valeria Spinelli, e cioè Francesca Einaudi. Ciao Francesca! Ciao, buon pomeriggio! Che bello avere Francesca Einaudi, che è una delle mie attrici preferite, insieme all'attrice che interpreta Laura Piccardo, cioè Caterina Guzzanti. Ciao Caterina! Ciao, che coincidenza meravigliosa! Ma no, ma allora, io non l'ho detto per caso, ma perché? Quando mi hanno detto, ah, c'è una nuova fiction, ti mandiamo il press book, come si fa sempre con i giornalisti, così vedi la prima puntata e vedi un po' se ti piace. No, io sono impazzita e poi ho detto, vabbè, loro due, straordinarie. Speriamo che tutti gli spettatori siano come te, allora. Sì, davvero. No, io lo garantisco, io ho una certa esperienza di domenica sera sul divano, col plaid, con, non so, la tisanina. Beh, adesso che arriva la primavera, magari qualcosa di meno bollente. Ho una certa esperienza di fiction della domenica sera per il relax, quindi Come fai sbagli secondo me sarà molto molto molto carina. Io ho visto, lo confesso, la prima puntata l'ho già vista. Allora, Francesca e Caterina, devo dire che loro sono le due mamme di figli già grandi e quindi vi hanno un po' invecchiate tutte e due, un pochino, cioè non, i figli sono, senta, son grandi. Un'altra domanda? Cioè no, dai, perché siete troppo più giovani, troppo più giovani. No, dai. Hai sentito, Francesca, questo bisogna dirlo alla produzione. Io ho detto subito, ho detto, ma quindi mi invecchiate, sono un figlio di 18 anni. Appunto. No, perché? Potresti averlo, beh, scusa, no? Perché uno non può aver fatto i figli presto. Va bene che adesso ormai siamo tutte babbione e i figli li facciamo tardi, però... È vero. Una volta si facevano anche presto, può capitare anche di fare i figli a 19 anni. È vero, è vero, perché due mamme giovanissime sarete. Allora, io parto con Francesca. Francesca, tu sei la mamma più liberal, un po' distratta, un po' pazzerella, molto carino questo ruolo. Sei la mamma in cui molte si identificheranno. Ma diciamo quella un po' più new age, mettiamola così, però sì. Alla fine del salmo, che è un po' anche la tesi della serie, che non c'è una regola di fondo. Il problema è che quando avrò creato sufficiente caos per non sapere più come riprenderlo in mano, dovrò essere più nazista io di quanto non lo sia Caterina, insomma, nel suo di ruolo. Tra l'altro hai un compagno fighissimo nella fiction, che è Daniele Pecci, che ci è piaciuto molto. Di cui abbiamo sentito la voce. Beh, sì. E che non è neanche il meglio, posso dirlo, se posso permettermi di dirlo in radio. C'è anche, c'è anche molto oltre alla voce. Invece Laura Piccardo è... No, invece no, non sta con Daniele Pecci. No, sta con Enrico Iannello, che anche lui è un pezzo di attore. E tu sei invece quella un po' più rigidina, un filino. Porella, anch'io ho visto soltanto la prima puntata come te e mi compatisco molto. Fa un po' tenerezza questa mamma che doveva essere spietata, in realtà cerca di galleggiare in un mare di regole, di aspettative da parte del marito, dell'imposizione della società, come se, non so, dei nobili stessero sempre lì a guardare come mettono le forchette a tavola. Anche perché i figli sono sempre le nemesi alla fine, bisogna sempre avere a che fare, soprattutto quando poi sono degli adolescenti come in questo caso. Sì. Ognuna delle due famiglie infatti ha almeno un figlio che sembra uscire dall'altra famiglia, non dalla propria, quindi... Sì, cioè, loro hanno il piccolo che è un secchione insopportabile che li bacchetta. Voglio chiedere a entrambe la decisione di prendere parte a Come fai sbagli, la decisione di affrontare una fiction, perché poi insomma è sempre un'avventura, anche se la firma è quella di Riccardo Donna insieme a Tiziana Aristarco, quindi c'era un regista c'erano registi con mano molto molto esperta. Francesca, la decisione di affrontare Come fai sbagli? Ma guarda, a parte che ho fatto un provino e quindi... È stata una decisione innanzitutto presa dalla RAI e dai registi di scegliermi. E io ovviamente ho lottato e ho voluto farla fortemente perché mi piaceva molto il personaggio, insomma mi dava molta possibilità di giocare con registri diversi, sempre insomma cercando di stare dentro una dimensione che non fosse sopra le righe ma realistica. Però di insomma lavorare su molte sfaccettature differenti, insomma è questo che mi piace molto di Valeria. Chiedo a Paolo in regia se abbiamo una clip di Valeria per sentire un po' come questa Valeria Spinelli. Servizi di segreteria telefonica. Valeria, ti muovi! Sono già tutti in sala riunioni, Ulrich ha già sfoderato le slide e la capa comincia ad essere molto nervosa. Prima non è raggiungibile, poi di nuovo è raggiungibile. Secondo me non mi vuole rispondere. È un'ipotesi plausibile. E quindi? Ragazze! Dai. Valeria! Ho trovato un modo per fregarla. Chiamo gli amici. Ho un po' di numeri registrati per le emergenze. Tu dica che arrivo subito. E Laura con me, Paolo, faccela sentire. Quindi in sostanza lui sta sulle spalle di lei. Esatto. In sostanza allora mamma anche tu stai sulle spalle di papà? No. Beh no, è molto diverso. Perché? Perché io ho scelto di fare la madre e svolgo il lavoro di madre. E Giulio ha stropicciato tutta la camicia e l'ha buttata per terra. Allora io l'ho raccolta, l'ho sistemata. Ho fatto bene, Paolo? Certo, amore. No! No! No, ho fatto malissimo. Beh, super carina anche questa Laura. Caterina, per te com'è andata l'avventura di Come fai sbagli? Stessa identica prassi, ho fatto un provino e per fortuna mi hanno preso. No, mi sono divertita molto a interpretare un personaggio così lontano da me. A parte che non ho... Aspetta, scusate, nel frattempo mio figlio ha dato una craniata. No, vabbè. Un masso. Non ci posso. No, ecco, questa. Terme di Caracalla si è conficcato di testa in un. No, in Caterina, vai a vedere cosa romana. È successo prima di fare danni. È così, perché siamo davvero diretta vera. Caterina vera. È mamma. Infatti, se si sentono abbaiare cani, quella sono io, che ancora non ho figli, però potrebbero abbaiare cani. Tu, Caterina, siamo in diretta, capito? Amore! Esatto. Si è fatto male? In braccio, no, perché ha sonno e ha sbattuto la testa. Non farci preoccupare, si è fatto male, no? No, un figozzo sì, se lo vedessi ti spaventeresti. No, vabbè, poi questo è il bello delle mamme, ma sì, si è fatto male, però vabbè, si prende male. Almeno è simmetrico, non se ne è fatto un altro ieri al nido, mi sembra finalmente. Giusto. Non è giusto. Più un unicorno bilanciato. Beh, spettacolare Caterina, sei spettacolare. Tra l'altro avete un sacco, nel cast appunto abbiamo parlato di Daniele Pecci e Enrico Ianiello, che sono i due mariti, i due papà. Ci sono dei nomi bellissimi, c'è Massimo Ciavarro, c'è Tullio Solenghi e io non vedo l'ora di vedere Loretta Goggi, che è mio mito. Fa scintille. Devo dire che i litigi non mancano, ma lei fa mia mamma e quindi ci sono molti litigi tra me e mia figlia e molti litigi tra me e mia mamma. Io passo praticamente la serie a litigare fondamentalmente. Beh, no, non è vero. Io no. Ci vedo, invece ci vado molto d'accordo, perché lei è come noi, diciamo, e quindi si lamenta della figlia, della gestione che ha Valeria di questi figli, specialmente la grande Zoe, che è una sciagurata, e quindi i Piccardo riescono a parlare male alle spalle dei Spinelli pure con la nonna. Beh, loro. Così. Vi chiedo un'ultima cosa, voglio sapere se anche voi avete come me la passione della domenica sera sul divano, ma magari non è necessariamente la domenica sera, perché poi ognuno si fa il ma momento magari, del... Ma chi la vede più la televisione, ah, beh, tu magari... Devi evitare i massi. Io in generale ho la passione per il divano, quindi... Ah, ecco, in questo sono più affine a Francesca, che abbiamo cani e divani, ecco. Caterina in questo momento ha un po' più da fare. Io sarei da cani e divani, adesso è arrivato questa persona a casa mia che ha deciso di vivere con me, questo bimbo, ma io stavo per prendere un cane, è arrivato lui. Ah, lo dico con grande amore, per l'altro, e comunque lo prenderò lo stesso presto. Straordinario, però impazzisco. Devo dire che vedere come fai sbagli, come vedere altre fiction come quella che l'ha preceduta la domenica sera, sempre su Rai 1, fa capire come ci sia un modo nuovo di raccontare, un modo nuovo di girare, un'attenzione, una cura, anche per voi dal punto di vista delle attrici. Io lo posso dire solo dal punto di vista della spettatrice appassionata. Ma sicuramente c'è anche una voglia di guardarsi intorno, no? In un mondo sempre più globalizzato, anche questa serie prende spunto da una serie francese che è un po' la sorella maggiore, insomma, poi... prende le distanze e ha sviluppato un mondo a sé, però insomma nasce da un'idea francese, da un'idea di una serie francese, quindi c'è una volontà di raccontare in un modo diverso che non sia soltanto nostro e basta, ma che rappresenti un po' di più la globalizzazione o l'estensione appunto dei modi di vivere, di essere, che è diventata, ci accomuna un po' tutti quanti, e anche le famiglie che sono diventate sicuramente diverse rispetto a prima, e quindi vanno o meritano di essere rappresentate. Allora, io devo ringraziare molto Francesca, ringraziare Caterina e il bimbo di Caterina. Che io adesso... stavo per dirti, guarda, io sono totalmente d'accordo con Francesca. Tra poco la linea cadrà, perché non è mai successo. Io la premessa era che loro due sono fighissime, infatti si è sentito anche in questa intervista. Allora, grazie a Caterina Guzzanti, grazie a Francesca Inaudi per essere state con noi. Un abbraccio grande a entrambe. Allora, ricordo come fai sbagli, su Rai 1, 6 serate da 100 minuti, si dice così, dal 20 marzo, cioè da domani sera, io divano, copertina, sarò a posto così per tutte le domeniche sera. Sono la storia della famiglia Spinelli e della famiglia Piccardo, una progressista, una più liberale. Abbiamo cominciato a parlare di genitori e figli con questa fiction, ma genitori e figli ci terranno compagnia in altre pagine di questo Sabato del Villaggio. Adesso facciamo una breve, brevissima pausa, poi ci troviamo ancora insieme. Tra poco incontreremo il nostro gastronauta. Tra poco, pochissimo. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci insieme con un'altra pagina del Sabato del Villaggio. Abbiamo incontrato carine, super carine, Caterina Guzzanti e Francesca Einaudi. Molto carina anche la fiction, ve la consiglio io perché ho già visto la prima puntata e mi sono divertita molto. I vostri messaggi al 349-238-6666 vanno bene sia agli sms sia ai whatsapp, ma vi lo chiedo sempre, non mandatemi messaggi vocali whatsapp perché essendo io in diretta non riesco a sentirli in tempo reale, mentre se sono scritti io li leggo con piacere. Ah, c'è qualcuno che mi chiede che cane ho, perché ho detto cani e divani sono la mia passione. No, in questo periodo non posso avere un cane perché non posso stargli, non potrei stargli dietro con abbastanza attenzione, affetto e amore, allora mi coccolo il cane dei miei nipoti che è un pincher che si chiama Spotty e che è un cane fantastico. Ma è il momento, lo dicevamo, di collegarci come sempre a quest'ora con il nostro gastronauta e io lo introduco così. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Vabbè, è praticamente una dichiarazione, cioè... Ciao Davide! Ciao, guarda, mi porti indietro perché una decina di anni fa era la colonna sonora di una serie di puntate che ho fatto su Rai International. Ah, e che bello! Così, quindi devo dire mi riporta molto indietro. Sì, parleremo di pizza, ma di pizza fritta, però prima permettermi di fare gli auguri a un personaggio forse il più importante della cucina italiana, che è Gualtiero Marchesi, che oggi compie 86 anni. Ah, quindi, accidenti, auguri! Quindi credo che valga la pena, cioè, di ricordarlo, perché l'importanza del personaggio. Ma passiamo alla pizza. Bene, tutti conoscono la pizza al forno. Pizza al forno, diciamo che forse è il mangiare italiano più conosciuto nel mondo, anche se gli americani, un giorno un professore dell'università, John Hopkins di Bologna, durante un congresso disse "How do you say in Italian pizza?" Quindi credo che però sia italianissima e soprattutto sia napoletana. E anche a Napoli nasce la pizza fritta di cui vi voglio parlare, perché in questo momento in cui, diciamo, la tendenza è verde, però piano piano ci sono altre tendenze minori che stanno salendo e il fritto sta tornando. E che ne dicono molti medici o molti nutrizionisti o d'altro, la gola fa agio magari anche sulle indicazioni che arrivano. Beh, ogni tanto si può, sempre con moderazione, però un fritto ogni tanto concediamocelo. Ed è il segnale, proprio domani a Milano perché uno dei più grandi pizzaioli conosciuti in tutto il mondo, che è Gino Sorbillo, napoletano, che ha già una pizzeria a Milano di pizza al forno, diciamo, tradizionale, apre un negozio, una nuova attività di pizza fritta. Beh, e questo secondo me è un grande segnale. Mi subito prenderò appunti perché questo mi interessa particolarmente. E allora si chiamerà Antica Pizza Fritta di Zia Esterina, questo posto, pensa. Però, ecco, quindi cos'è la pizza fritta? E vediamo un po' anche di definirlo. Certo. C'è chi l'ha definita la parente povera, la sorella povera della pizza al forno, perché? Perché durante la guerra a Napoli, quindi non c'era la mozzarella, non si trova il pomodoro, nelle case quelle che riuscivano facevano diciamo, la pizza in questa maniera, ma anche pizza del popolo veniva chiamata subito dopo perché veniva venduta per strada per arrotondare, molte famiglie per arrotondare, ed è uno street food ante litteram. Però come dicevo sta ritornando. Però ha molte similianze perché è fatta con acqua, farina, sale marino e lievito madre fresco, quindi e si può anche farcire. Quindi dentro ci si può mettere di tutto, ci si può mettere prosciutto, formaggio, tutto quello che si vuole. È un mangiare, se vogliamo, un mangiare completo. Però già il panzerotto a Milano aveva un successo strepitoso, quindi il panzerotto di un certo personaggio storico che si chiama Luini, e vicino andrà questa pizza fritta. Quindi oltre alle file chilometriche che chi viene a Milano sa si trovano davanti a Luini, ci saranno le file di fronte, beh, incredibile. Ecco, questo dimostra del successo, però devi sapere che dove è Luini c'era il famoso forno dei Promessi Sposi, storicamente, quindi chissà, forse quella via ritorna ad essere quasi, ritorna al pane, non ci sarà sicuramente l'attacco ai forni, ma sicuramente diventa una via molto, ma molto golosa. A Napoli, già a San Giorgio Cremano, c'è un altro pizzaiolo famoso, che sono i fratelli Salvo, che fanno una pizza fritta che ha veramente un successo incredibile e la servono, cioè la vecchia pizza fritta veniva servita col marsala, pensa un po' che antica consuetudine napoletana. Quindi io vedo un risorgere, anche perché lo gnocco fritto sicuramente in Emilia continua a funzionare. Come, io ne segnalo uno all'Osteria delle Vigne, a Via Zano, in provincia di Parma. Quindi ci sono tutti questi posti scoperti magari dai gourmet che poi diventano abbastanza importanti come le file. Ma è improvviso, io credo. Vedrai che stavolta non mi sbaglio, questa tendenza salirà perché molte pizzerie cominceranno a fare pizza fritta. A Milano c'è un altro posto che da anni fanno la pizza fritta ed è una pizzeria tradizionale, si chiama Piccola Ischia. Quindi conosco, diciamo, bene, che sì. Cominciamo a essere tanti, anche se pare che il padre di tutto sia un certo Masardone a Napoli. Quindi vabbè, comunque la pizza, viva la pizza fritta, sicuramente magari, chissà, i nutrizionisti e i medici interverranno, chissà come fritto, quale olio, e qui ci saranno una sequela di discussioni. Ma però senti, il nostro ascoltatore Ulisse ci scrive al 349-238-6666: nel dissacrare il politicamente corretto in cucina, Paolini è sempre un mito. Sì, siamo un po' scorretti, dai, dobbiamo essere. Io sono scorretto e sono della scuola: non ti curare di loro, guarda e passa. Vero, quindi, vero. Questo è il mio motto e la mia scuola. Va bene. Comunque, allora, ora, tendenza fritto, ma solo per la pizza? No, ormai la tendenza fritta c'è anche per le verdure fritte, visto che vogliamo rimanere in un campo molto, molto di tendenza. Diciamo che ci sono. E poi, scusa, a Milano c'è la cotoletta. C'è la cotoletta, che anche qui sono scorretto. La cotta nel burro e non nell'olio d'oliva, mi raccomando, perché lì c'è molto. Quindi devo dire che c'è addirittura anche una grande manifestazione in Italia che si chiama Fritti Italy. Pensate, non la conoscevo. C'è tutta base di fritti. E poi ci sono le olive ascolane, ricordiamo, ma fa parte della nostra tradizione, perché volerla così dimenticare. Quindi sono tante, l'abbiamo visto, gnocco fritto in Emilia, il panzerotto in Liguria, e poi anche in Toscana lo chiamano in una maniera particolare, ma c'è anche nella pizza fritta laziale. Quindi ce ne sono tantissime, e manteniamole, come magari con grano salis, ovviamente bisogna mangiarle. Quello sicuramente. Ci scrivono al 349-238-6666: la cotoletta va cotta sì nel burro chiarificato. Perfetto. Approvato. Anche mia nonna la cucinava nel burro, la cuoceva nel burro, quindi io cotoletta solo come la faceva la nonna. Davide, hai qualche indirizzo ancora da darci? No, sulla pizza fritta no, ma ora vado sull'itinerario. Sull'itinerario, perfetto. E allora, andiamo in una città molto romantica, andiamo in una città molto turistica, e le città turistiche hanno sempre delle difficoltà sulla ristorazione, perché di solito la ristorazione si adegua al turista che vuole spendere poco, e quindi diciamo che il livello si abbassa. Venezia, diciamo che per salvare dei ristoranti, insomma, bisogna essere molto bravi. Quelli generalizzati veramente fanno anche dire incredibile, si trovano molte pizzerie che hanno la pizza surgelata, tanto per fare un esempio, ma non solo Venezia, attenzione, in buona parte delle città turistiche c'è sicuramente l'uno e l'altro aspetto, l'una e l'altra medaglia. Ma voglio proprio cominciare a fare questo tour a Venezia con un locale che ha un cartello quando si entra: no pizza, no lasagne, no menù turistico. Come vedi, c'è qualcuno che si ribella a questo stereotipo, e sono le antiche carampane. Le antiche carampane è una trattoria molto conosciuta, che ha una cucina molto di tradizione, però non ricorre appunto in quello che è molto banale. Ad esempio hanno un piatto che si chiama cassopippa, e sono degli spaghettini con sugo, diciamo fatto da molti molluschi. E ovviamente a Venezia, se uno vuole andare a mangiare in un posto che è di livello, deve scoprire se questo ristorante va a comprare al mercato di Rialto. Certo. Io lo segnalo perché sicuramente in questo itinerario, quando si va a Venezia, non si può non andare a visitare il mercato di Rialto e magari spizzicare qua e là anche dei buoni bocconi. Ma ora ti darò appunto una serie di trattorie, poi arriverò anche a un grande ristorante ovviamente. Certo. Ti do un locale che io sono molto affezionato, ma tutti credo che si occupano di cibo, anche i veneziani, sono affezionati al Vecchio Frittolin. Bene, il Vecchio Frittolin è di un personaggio che è una veneziana ad hoc, si chiama Irina Freguia, una grandissima appassionata di cibo, che ha questa osteria da tantissimi anni assieme al suo cuoco che si chiama Daniele. Bene, Vecchio Frittolin da che cosa deriva? È il pesce fritto da asporto che si chiamava Frittolini, quelli che lo avevano, e quindi qui sicuramente chi avesse voglia, seduto però, di mangiarsi un bel fritto di pesce, torniamo al fritto da asporto. Bene, il Vecchio Frittolin sicuramente non ha solamente questo, ha delle seppioline che si mangiano quando sono fresche, veramente interessanti. Poi non può a Venezia non può mancare il baccalà mantecato, è una delle caratteristiche. Qui faccio una chiosa: a Venezia, in Veneto, il baccalà è il corrispondente dello stoccafisso, si chiama baccalà, ma in realtà è quello che da altre parti si chiama stoccafisso. Vero, vero. Quindi facciamo questa precisazione. Dal Vecchio Frittolin, qua diciamo il pesce del giorno, si mangia anche nel cocio. Il cocio quindi è un pesce che viene molto ma molto succolento. Sempre rimanendo diciamo sulla trattoria, andiamo alla Corte Sconta. La Corte Sconta tanti anni fa diventò famosa perché era il posto preferito da Pertini. Pertini, l'allora Presidente della Repubblica, andava a mangiare, la prima volta andò a mangiare in questo posto e quindi diventò famosissimo la Corte Sconta. Bene, ha continuato nel tempo, è vicino all'Arsenale, quindi magari chi va a vedere le mostre d'arte a Venezia sicuramente lo conosce. Qui si possono mangiare di stagione ovviamente le moeche fritte, che è un altro piatto classico di Venezia che non si trova da altre parti perché le moeche sono di laguna, quindi non è facile trovarle al di fuori. Continuiamo in questo viaggio e non posso non parlare delle testiere. Le testiere è un altro localetto molto molto piccolo, qui bisogna prenotare perché sennò non si trova posto. Si chiama testiere perché chi ha inventato questo era un concierge d'albergo e quindi il discorso testiere derivano testiere dei letti, insomma. E questo personaggio ha creato questo piccolo posto che è molto seguito dai buongustai, dove purtroppo non c'è un menù fisso. Qui si varia veramente alla giornata secondo il pescato del giorno che si trova a Rialto. Comunque si trova la grancevola alla veneziana di sicuro. I calamari si trovano spesso, oppure il baccarà, e anche qui c'è eccellente un misto di molluschi allo zenzero, e quindi un altro posto che sicuramente è da segnalare. Bene, ora arrivo in un posto che è famosissimo. Ah. Un posto che è famosissimo è sicuramente Arrigo Cipriani con l'Aris Bar. Ecco, sì. Questo diciamo è un film, tanto è vero che lui ha scritto un libro dentro all'Aris, ha raccontato la sua vita dentro l'Aris Bar, e tutti chi conosce Arrigo Cipriani sa che è un diciamo un polemista di prima riga, è uno sicuramente che non le manda mai a dire, i suoi libri sono molto divertenti. Io ho letto questo libro ed è veramente, ho visto che dentro all'Aris Bar sono passate generazioni di personaggi molto importanti, di alcuni non fa il nome, ma c'era un cardinale che di solito mangiava al banco. Bene, qui che dire, ci sono tantissimi piatti che hanno fatto la storia, cioè le seppioline sulla brace, oppure ancora paste fagioli e ancora il risotto primavera, che sono diventati veramente dei must. Dulcis in fondo. Sì, il caffè, l'ultimo minuto cosa sì, ci regala? Il Gran Caffè Quadri dei fratelli Alaimo, e questo è in piazza San Marco, quindi posto migliore di questo per godersi la città non ce n'è. Qui si fa una grande cucina che si rifà al locale che gli Alaimo hanno a Padova, e quindi alle Calandre, e non c'è Massimiliano Palaimo e Fornelli, ma c'è un suo allievo che è Silvio Giavedoni, che sicuramente non lo fa rimpiangere. Qui si possono mangiare grandi creazioni, diciamo, ma con uno sguardo anche alla tradizione, perché si possono mangiare i ravioli di burrata con vongole e setti. Una grande carta dei vini, un bellissimo posto con due piani, uno dove diciamo è molto più economico e un altro invece è da gran serata. Ho preso un sacco di note, perché io poi a settembre vado a Venezia tutti gli anni, quindi me li sono segnati tutti. Grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, sono arrivati tantissimi messaggi. Davide, li leggo dopo la pausa. Noi ci troviamo sabato prossimo. Va bene, ciao, grazie, ciao. Il sabato del villaggio. E quando si parla di fritti si scatenano i messaggi, è proprio un piacere, un guilty pleasure, una cosa che ci piace tantissimo. In Toscana la pizza fritta si chiama ciaccino. Fabrizio, in provincia di Livorno la pasta fritta si chiama zonzella. Ines da Torino, in Piemonte c'è il fritto misto alla piemontese, favoloso. E a Treiso, credo sia Treiso ma non sono mica sicura, Trattoria Risorgimento ci invitano ad assaggiare il fritto misto alla piemontese. Arriviamo e lo segnaliamo a Davide Paolini. Dimenticate il Salento, pittule con le cozze, con le cime di rape, i panzerotti fritti. Beh, insomma, ragazzi, abbiamo già una fame, lo diciamo adesso con Paolo in regia. Niente, sono le 15:36 e saremmo già pronti per una merenda con la pizza fritta. Il filo conduttore di questo sabato del villaggio però sono genitori e figli. Oggi è la festa del papà, lasciatemi essere musicalmente un po' banale, ma quei grandi classici che ci stanno sempre bene. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Io sono pazza di Cat Stevens, l'ho ascoltato per tutti gli anni del liceo, non so come mai, ma Cat Stevens mi ricorda moltissimo i miei anni del liceo. Father and Son, festa del papà, parliamo di genitori e figli, lo facciamo anche nelle tecnologie, non lo so, io mi collego sempre con un pianeta lontano, non so bene dove si trovi, ma da qualche parte c'è Enrico Pagliarini. Enrico! Buongiorno, buon pomeriggio. Eccolo qua. Comunque Enrico, non so se hai sentito prima di noi Davide Paolini. Sì, ho sentito un pezzettino. Abbiamo parlato di pizze fritte. Quindi siccome dobbiamo andare a mangiare una pizza, io direi che nel nostro buon proposito di andare una sera di questa a mangiare una pizza, io propendo già fritta, per la pizza. Però, no, dai, pizza fritta, Enrico, dai. Vabbè, tu prendi la pizza fritta, io no. Va bene. Preferisco il, anche se si dovrebbe dire lo, ma chi se gnocco ne frega, lo gnocco free. Sei un po' gnocco come fritto, dire campanilista, modenese. Allora, esatto. Enrico, io ho detto vabbè, genitori e figli è un po' il filo conduttore di questo sabato del villaggio e devo dire che in fatto di tecnologie se ne possono dire tante, eh? Ah, sì, dovremmo, allora, direi che dovremmo fare le prossime 8 puntate solo su questo tema. Allora faremo delle puntate, perché, le faremo. Allora, vorrei dire 4 cose, che, però non ci impiego 4 secondi, nemmeno 4 minuti. Io allora, la prima è, se noi parliamo di genitori, di figli e di tecnologia, naturalmente facciamo riferimento a smartphone, computer, a internet in generale, alle applicazioni, tutto quello che noi facciamo buona parte del giorno o alcuni per molte ore al giorno, alcuni ogni tanto alla settimana. Allora, prima regola che diciamo sempre quando parliamo di questi temi è educazione e conoscenza, cioè succede che in questo ambito sono più educati e conoscono più cose i figli dei genitori. Quindi il primo invito è studiate, imparate per capire quello che si può fare, quello che si deve, dovrebbe fare in rete. Allora, l'educazione si fa anche con il buon esempio, quindi se un genitore fuma o guida senza cintura e fa la stessa cosa usando internet o usando lo smartphone, non può poi pretendere che il figlio impari, certo, impari bene. Quindi prima cosa, imparare a insegnare anche in questo caso. Poi si inizia dalle basi. Quante volte abbiamo parlato di password, dell'utilizzo dei social network con accortezza? Qui dovremmo ribadire cose che abbiamo già detto tante volte, ma qui si parla delle basi. Se parliamo di genitori e di figli, una delle basi è imparare ad andare a sistemare tutto quello che riguarda i social network e le impostazioni di privacy dei social network. Io okay. non so, dovremmo dire alzi la mano chi non ha mai o chi ha che è andato almeno una volta nell'impostazione di privacy a decidere chi può vedere, che ne so, le fotografie che il bambino mette su un social network, chi può contattare quel bambino. Ecco, questo già è un primo passo. Allora, questo direi il primo livello, il livello tenendo base. Conto appunto che ormai anche i bambini vogliono avere sì. Poi non entro nel merito se ad una certa età è giusto, è corretto avere già il social network, avere il tablet, avere lo smartphone. Questo lo lascio decidere ai genitori, agli esperti, non lo so. Insomma, poi qua ci sono vari genitori che tentano di resistere e alcuni resistono per anni. Allora, poi ci sono altri tre livelli un po' più sofisticati, ma mica tanto poi, comunque sicuramente un po' complessi, dove bisogna un po' studiare. Allora, il primo, che sarebbe poi appunto il secondo punto, software di sicurezza. Allora, i software di sicurezza oggi, ma già da un po' di tempo, hanno una sezione che fa una cosa. Qua devo parlare un po' in inglese, devo citare una parola inglese che ci è un po' utile quando anche si fanno uh-huh. delle ricerche. Parental control viene tradotta in malo modo in italiano, controllo parentale. È un po' brutto, però si dice parental control. Quasi tutti i software, quindi le suite di sicurezza, i famosi antivirus, certo, hanno anche una sezione dedicata al parental control. Che cosa si può fare con queste cose? Installando questo software sul computer, sugli smartphone, sui tablet, si può poi espandere l'installazione su vari terminali. Allora, controllo dei siti, cioè controllano su quali siti internet i bambini vanno, controllano che cosa fanno e quanto tempo ad esempio stanno sui social network, controllano che ricerche vengono fatte. Allora, se poi uno scopre che il proprio figlio cerca tutti i giorni bomba in Piazza Duomo, io mi preoccuperei, no? Ecco, quindi. Sono cose utili. Controllano le app, cioè controllano che le app che vengono installate siano all'interno di limiti che vengono impostati dal produttore di questi software, che siano app sicure. Controllano il tempo utilizzato, cioè possiamo anche decidere che noi puoi utilizzare internet per 3 ore e poi basta, e quindi questo è un controllo utile. Alcuni controllano addirittura la posizione, cioè sapere dove si trova il figlio, che può essere una cosa utile. Allora, poi, terzo livello, servizi integrati nel sistema operativo, come ad esempio, cito due casi, Apple e Google. Apple ha una soluzione che si chiama Apple in famiglia. Si possono fare alcune cose, cito forse la principale, la più utile, la più interessante, che il genitore, impostando anche la propria carta di credito, autorizza il figlio a installare le applicazioni e, nel caso le applicazioni sia a pagamento, autorizzare il pagamento. Quindi non è che il figlio installa tutto quello che vuole, certo, e può comprare quello che vuole. Questa è una delle funzioni che può fare. Poi si possono condividere un sacco di cose, le fotografie, e comunque il controllo è del genitore, del capofamiglia. Certo. Poi, allora, per quanto riguarda Android, su Android si possono installare alcune applicazioni che fanno questa cosa, ma nello stesso Android c'è la possibilità di impostare, non è una cosa facilissima, però si può fare, impostare un secondo account che dipende dall'account principale, quindi si possono autorizzare tutta una serie di cose. Una cosa invece un po' più facile da fare, che può essere utile, è attivare all'interno di Google Play Store, cioè il negozio da cui si comprano le applicazioni, si possono installare le applicazioni, si può attivare il controllo genitori. Uh-huh. E quindi tutta una serie di filtri che il genitore può impostare per evitare che il figlio installi tutto quello che vuole. Ultimo livello, okay. E qui vi ho dato un sacco di cose da studiare, perché qui poi per ogni capitolo bisogna studiare, andare a capire che cosa si può installare, eccetera. Allora, ultimo livello sono le offerte, e qui parlo di smartphone che sono collegati a internet, che quindi hanno un piano dati e che quindi possono installare le applicazioni, eccetera, eccetera. Allora, ci sono non tutti, ma alcuni operatori di telecomunicazioni che hanno un'offerta proprio pensata per i bambini, per i ragazzi. Quindi si può decidere che cosa, ad esempio, si possono impostare filtri che è la stessa cosa che fanno anche alcuni software, però qui lo fa direttamente l'operatore, si può decidere quando o quanto tempo navigare, quindi impostare limiti orari di navigazione su internet, un tempo massimo di navigazione, cioè ti garantisco che navighi solo, sì, dalle 19 alle 20, oppure che navighi al massimo 2 ore al giorno, ecco, cose di questo genere. Beh, fine. Allora, se vuoi continuiamo, ma sono i 45. Ma mi bacchetta sugli orari, Enrico Pagliarini, perché lo so che anche sei in un posto ignoto del mondo, è lì che controlla il... Però l'orario è giusto. L'orario è giusto, dai, è l'ora giusta. Almeno per... il minuto, l'ora non lo so. Potrei essere in un fuso diverso. In questo momento 46, quindi diamo la linea con un minuto di ritardo alle oggi utili più che mai indicazioni sulla viabilità e poi ci ritroviamo insieme con Enrico Pagliarini. Il sabato del villaggio. Intanto io stavo aprendo Instagram per seguire Papa Francesco, che ha fatto il suo primo post su Instagram. Enrico, l'app della settimana. Allora, l'app di questa settimana è l'ufficio postale, cioè le poste hanno fatto una cosa interessante perché hanno creato un'applicazione che permette di fare alcune cose. Allora, sicuramente una delle più utili è prendere il bigliettino per fare la fila, ma averlo sullo smartphone, il che vuol dire che noi anche prima di uscire di casa, oppure se siamo in un altro luogo, possiamo metterci in fila e se davanti a noi ci sono 10 numeri, avere tutta la tranquillità ad arrivare all'ufficio postale, magari a quel momento arriva il nostro momento per andare allo sportello. Poi si possono fare altre cose, tipo pagare il bollettino, poi il resto ve lo lascio scoprire. Ufficio postale. Mi piace tantissimo. Ti leggo due messaggi al volo prima di parlare di cinema. Furio, che ti ringrazia perché dice: Enrico, tutte le volte che ti ascolto imparo qualcosa di interessante. E adesso ti faccio ridere perché c'è un altro messaggio che ci dice: se non è in studio dovete dare il cellulare di Pagliarini a tutti, in particolare a Pardo, che ha comunicazioni sempre scassate. Perché è vero, Enrico Pagliarini è l'unico che si collega così, ma non possiamo dire come si collega Enrico Pagliarini. Sono tecnologie sofisticatissime. Enrico, ciao. Resta ad ascoltarci, ciao. Perché parliamo di cinema. Certo. Chi sei tu, papà? Dal tuo vecchio un abbraccio. Vieni con me, c'è un villaggio segreto dei Panda sulle montagne. Wow. Benvenuto a casa, figliolo. Kai è tornato. Chi? Il maestro del dolore, la bestia della vendetta. Il crea vedove. Non conosco. Vabbè, ho lavorato con Oogway. Oh, oh, il maestro Oogway. Silenzio! Arriva per i panda. Devi insegnare loro a combattere. Io sono pronto. Sei pessimo. E questo film lo avrete riconosciuto all'istante, uno dei film di animazione più attesi della stagione. Chiediamo subito al nostro super esperto se vale la pena vederlo. Beh, certo, una domanda scontata. Allora, Kung Fu Panda 3, lo andiamo a vedere, Franco D'Assisti? Ciao Marta, risposta scontata, esatta, positiva. Sì, assolutamente, Kung Fu Panda 3 va visto e va visto al cinema, perché ci sono tanti perché. Intanto è molto meglio del 2. Ritorna sui livelli del primo, del capostipite di questa saga di Po, il panda guerriero, che però è un pochino maldestro, diciamo così, e ha dentro in questo forse un po' di tutti noi. E un'altra grande motivazione per andarlo a vedere è che è un po' anche di sano nazionalismo e patriottismo. È diretto da un italiano, Alessandro Carloni, che tra l'altro sarà ospite con un'intervista esclusiva alla Rosa Purpurea, che per la prima volta nella storia dell'animazione digitale, insomma in 20 anni dalla Pixar in poi, vediamo un italiano dirigere un film di questa importanza, anche commerciale. Ci fa molto piacere, perché Alessandro ha fatto un lavoro veramente ottimo, portando il panda da eterno e incompiuto studente guerriero a diventare un maestro guerriero, a dover insegnare lui agli altri quelli che sono i suoi punti di forza per salvare la comunità dei panda messa in pericolo dal cattivo di turno che agisce con dei guerrieri di Giada e tra l'altro si impadronisce anche di tutti i suoi amici. E quindi c'è questo tema, ma le polemiche a cui facevi riferimento tu, Marta, sono invece per il fatto che Po scopre di avere un padre biologico e quindi affronta tutto il film con due papà, e di questi tempi, come dire, questo è bastato, pensate un po', per innescare qualche polemica totalmente inutile, ovviamente. Altro film che mi incuriosisce molto, voglio un tuo consiglio, Franco, Brooklyn. Sì, è un film molto interessante, questo Brooklyn, che racconta la storia di una giovane donna che parte dall'Irlanda, siamo negli anni 50, parte da un'Irlanda contadina, conservatrice, super cattolica, per andare a cercare fortuna al di là dell'oceano, appunto a Brooklyn. È un film quindi di migrazioni, è la strada che hanno fatto tanti, anche tanti nostri connazionali. Arrivata di lì, infatti, la protagonista si innamora di un ragazzo italo-americano. Man mano che il tempo passa, la vicinanza sofferta e la mancanza soprattutto della sua famiglia irlandese sembra quasi scemare dentro questa America piena di promesse, piena di sviluppo, piena di occasioni, fino a quando non arriva dall'Irlanda la notizia della morte improvvisa della sorella, che rimetterà in discussione tutta la sua vita. Protagonista è Saoirse Ronan, che sta diventando una delle icone dei visi più forti del cinema, non solo britannico, lei è inglese, ma anche americano. Un film diretto con grande eleganza da John Crowley, un film che forse non si sporca tanto le mani, molto estetico al limite dell'estetizzante, però è un film sicuramente da vedere perché racconta una storia nella quale possiamo rivedere anche la nostra storia. Due flash su altri due film in uscita questo fine settimana, Truth e Risorto. Consigli o sconsigli? È piuttosto semplice, Marta. Un consiglio, Truth, il prezzo della verità, perché questo film con Robert Redford e Kate Blanchett si inserisce in questa nouvelle vague del filone di inchiesta giornalistica americana che ha portato il caso Spotlight a vincere l'Oscar, ma che vede una serie come Newsroom furoreggiare in televisione, che ha visto La grande promessa come uno dei film più belli di questo inizio di stagione. Qui siamo a raccontare la storia di un'inchiesta che avrebbe dovuto dare la spallata definitiva per la mancata rielezione di George Bush all'inizio degli anni 2000 e che invece si rivelò un boomerang e portò alle dimissioni di Dan Rather, del mitico Dan Rather, anchorman della CBS. Questo sicuramente è un consiglio, uno sconsiglio Risorto, perché c'era sicuramente dell'interesse nella storia, nel raccontare la storia di quei giorni della resurrezione di Cristo. Qualcuno aveva parlato quasi di un sequel di The Passion of Christ. Bene, siamo lontani anche da quella intensità che aveva raggiunto Mel Gibson, però si raccontano quei giorni, si racconta di un Barabba liberato da Ponzio Pilato che fa riotte e sassate con l'autorità costituita, che nel caso sono i romani, e si racconta di Clavio, appunto il tribuno, che deve sorvegliare il sepolcro di Cristo e che, come annunciato, lo troverà a un certo punto vuoto. Parte un'inchiesta che è quasi una sorta di legal thriller, però ecco, diciamo che qui invece la messa in scena, la parte estetica, la regia lasciano un po' a desiderare. Gli apostoli vengono dipinti come una sorta di 12 fanatici che sembrano usciti direttamente da un musical hippie, mentre le scenografie sembrano un pochino troppo iconografiche e poco realistiche. Questo cinema ha bisogno di altro e Risorto tutto sommato non lo offre. Prima di chiudere il nostro spazio dedicato al cinema, voglio farvi una segnalazione, perché la prossima settimana parleremo di un radiodramma che si intitola Ustica, che andrà prestissimo in onda su Radio 24, un radiodramma firmato da Renzo Martinelli che è anche in uscita il 31 marzo proprio con il film Ustica. Quindi ne parleremo presto, prestissimo a Radio 24. Franco, invece, con te l'appuntamento con La Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18. Ci sentiamo alla Rosa Purpurea, grazie Marta. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. Siamo pronti per la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Come sempre, tutte le tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema. Il numero per i vostri SMS e messaggi WhatsApp 349-238-6666. Ve lo ripeto, ma so che ce l'avete in memoria, 349-238-6666. E poi c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, con l'hashtag #ISDV. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Beh, una seconda ora in cui parliamo ancora tanto di genitori e figli, anche nei consigli dei libri, nello spazio di Alessandra Tedesco e nella nostra pagina dei consumi con Maria Luisa Pezzali. Come sempre però anche i grandi big del momento, andiamo a festeggiare il primo in classifica degli album, perché anche lui poi scoprirete a che fare con il tema di oggi, genitori e figli, Lorenzo Fragola. Ma partiamo subito con una famiglia e un papà molto particolare. Basta il nome Rocco. Sì, Freddy, ovviamente. Vivo un senso di colpa continuo da più di 20 anni. Da quando ho conosciuto mia moglie dentro di me. Nulla sarebbe stato più come prima. Quel giorno, per la prima volta, mi sono trovato veramente nudo. Non posso più continuare a fare i film, se no perdo mia moglie, lo so. Quel giorno ho dovuto scegliere tra il mio lavoro di attore e la mia famiglia. Le persone che mi amano meritano un Rocco diverso. Rosa, arriverò e sarà un'altra storia. Ed è qui che comincia la mia nuova storia. Allora, una famiglia normalissima è quella di Casa Siffredi, che è partito il 17 marzo su La 5. È un docu-reality, sono già andate in onda le prime 2 puntate e io mi sono divertita tantissimo. Quando ho pensato al tema di questa settimana, genitori e figli, ho pensato anche a questo docu-reality, perché effettivamente racconta della famiglia di Rocco Siffredi, la moglie Rosa e i 2 figli. Sentite in sottofondo la sigla, quindi capite che non è una trasmissione particolarmente trasgressiva. Certo, un pochino di trasgressione c'è, perché stiamo parlando di un personaggio che fa un mestiere molto molto particolare, ma si racconta la storia di 2 genitori, di 2 figli, di una famiglia davvero normalissima, lo dicono Rocco e Rosa. Sì, noi siamo così, tranquilli, sì, divertenti, ogni tanto. Come tutte le famiglie, alti e bassi, si discute, una famiglia normale, si ride, si scherza, ci si arrabbia, a volte facciamo arrabbiare tutti e 3 i figli, perché lei mi considera il figlio più piccolo, tutti e 3 facciamo arrabbiare la mamma, lei è quella che si arrabbia di più, perché la vera, autentica, il pilastro è Rosetta, è lei che si arrabbia quando mettiamo i telefonini e li guardiamo sul tavolo mentre si mangia, quando accendiamo le news, che io guardo le news in televisione, solo quello, ma tu guardi solo questo, questo è il momento per discutere, per parlare, per avere dialogo con i figli, cioè devo dire che tutte le sue riprese ha sempre ragione lei. Rosa, secondo te perché gli italiani hanno tanta curiosità e tanto entusiasmo sempre nei confronti di tuo marito? Già l'anno scorso all'Isola era stato il protagonista più amato e gli highlights sulla sua persona e anche sulla vostra storia avevano avuto un successo così grande. Perché secondo te è così amato Rocco? Perché lui non porta la maschera, ironico, simpatica e la gente molto curiosa. E poi adesso è uscito fuori una novità sull'Isola, lato suo umano, diciamo, che lato familiare che magari tanta gente non conosceva, solo quelli veri fans, invece quelli magari che vedevano solo il film non sapevano che lui magari anche ha una famiglia. C'è una cosa che mi piace di te, che tu vuoi far venire fuori sia il tuo lato di imprenditore sia il tuo lato di professionista del cinema, perché ci sono molti pregiudizi, ma tu ci tieni a sottolineare questo? Ma ci tengo perché lo faccio da 30 anni. Io ho lavorato con i registi hard più famosi al mondo, che sono come me, passione, tantissima passione. Io dico, come dicevi adesso tu, quali sono i lati di tuo marito che riconoscono? Io credo che siano i 3 che io porto avanti da sempre: passione, umiltà, perché sono abruzzese e so che bisogna, per imparare bisogna starsi zitti e non lamentarsi, e ironia, perché ho scelto di fare il porno. Come fai a prenderti troppo sul serio? Però nell'ironia del porno c'è tanto lavoro, c'è tanta professionalità. Io porto persone su set, quando assistono a delle scene o come facciamo i film, mi dicono: ma come fate? Cioè, ma non ce la farei mai. Questo è il lavoro, ed è per questo che a me piacerebbe creare una sorta di scuola, perché per far capire quanto sia veramente un lavoro, allo stesso tempo chi a casa dice: ah no, allora non lo voglio fare, pensavo che era solo divertimento. Ecco, non lo è. Io dico sempre: un orgasmo vissuto sul set parte da sotto i testicoli, un orgasmo che fai a casa parte dallo stomaco, è completamente diverso. Ragazzi imparano poi attraverso l'internet che è sbagliato, non lo sanno più cos'è quella reale, cos'è quella non reale. Chiedi ai tuoi figli se loro vedono il porno su internet, se ne fregano o lo vedono, prendono insegnamenti, ma io o lo vedono... Non credo, perché comunque lui c'è, qui non è che hanno cominciato a... che andavano a vedere film porno. Che ne sai? Non credo che fai quell'aula. Che ne sai tu? Perché lo conosco. Ma che ne sai tu se lui va a vedere i film e vede quello che vede? Che ne sai? Quella non so che vede. Ah, è tutto amplificato, non è quella l'educazione. Abbiamo parlato di sicurezza tecnologica e di ragazzi con Enrico Pagliarini, ma come sentite anche Rocco Siffredi ne ha alcune da dire. Non so se avete notato la mia serietà nel parlare di cinema e del ruolo di imprenditore di Rocco Siffredi, come ero entrata nella parte, sorrido da sola. Devo dire, Rocco Siffredi è un personaggio davvero irresistibile perché è veramente simpatico. Quello che viene fuori da questo Casa Siffredi sulla 5, vi dicevo, è proprio il ruolo di Rocco e Rosa come genitori, che sono in questa puntata dedicata a genitori e figli molto più tradizionali di quello che potrebbe sembrare. A me fa piacere molto invece la visione di mio figlio, di Lorenzo, che dice: papà, l'abbiamo visto, era il suo sogno da bambino. Io mi sono sempre detto: cosa dirò e come spiegherò il mio lavoro ai miei figli un giorno? E vuoi sapere la verità? Non ci sono mai arrivato, perché loro, è come quando volevo imparare l'ungherese, sono loro che l'hanno spiegato a me, perché hanno visto la mia persona, mi hanno seguito negli anni. Io non ho mai nascosto a casa quello che faccio, li ho sempre resi partecipi, come dicevo prima, delle nostre discussioni, anche sul set, anche di lavoro, anche delle difficoltà e anche delle mie difficoltà. Mio figlio prima, che ha detto: io il porno per me è quello che voleva papà da bambino, io però ho una visione del sesso diversa. Per me questo è un qualcosa d'orgoglio, perché vuol dire che lui ha la sua propria identità, la sua propria personalità, e non deve essere per forza influenzata dalla mia persona. Sarebbe stupido, vuol dire che lui non avrebbe la sua identità se viene influenzata da me e si deve modificare o per sentirsi più figo, piuttosto che... A me piace molto che lui abbia la sua identità e che sia all'opposto della mia. Di famiglie di tutti i tipi oggi al Sabato del Villaggio, anche questa Casa Siffredi, che davvero è molto più divertente e meno maliziosa di quanto potrebbe sembrare. Così la professione del capofamiglia, diciamo così, professionista del cinema. C'è qualcuno che mi manda dei messaggi per prendermi in giro la mia serietà, ma io sono una seria professionista delle interviste, diciamo così. Allora, sulla 5 il giovedì sera, adesso andrà in onda sempre in seconda serata Casa Siffredi. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché abbiamo ancora altre pagine del Sabato del Villaggio da aprire. Il Sabato del Villaggio. Dovrei essere meno timida e leggervi i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 via sms e via WhatsApp su questa intervista sulla famiglia normalissima di Rocco Siffredi. Però sono timida, dovrei chiamare Giuseppe Cruciani per leggervi i messaggi che sono arrivati. No, io non ci riesco, però sono davvero tutti molto molto molto divertenti. Grazie, sorrido da sola. Adesso cerco di diventare un po' più seria, perché è il momento, al Sabato del Villaggio, di aprire la pagina dei libri. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Questa canzone l'abbiamo già sentita in qualche puntata del Sabato del Villaggio, direi un paio di settimane fa, perché Forever Young ci riporta a un film che è in questo periodo nelle sale, ma questo non è lo spazio del cinema, è lo spazio dei libri. Chissà perché abbiamo scelto questa canzone? Beh, lo chiediamo ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, e beh, perché il regista del film a cui tu fai riferimento, Fausto Brizzi, è anche l'autore di uno dei libri di cui si sta parlando maggiormente in questo periodo e si intitola Ho sposato una vegana, una storia vera, virgola, purtroppo, pubblicato da Einaudi. E tra l'altro è uno dei libri che viene presentato qui a Roma al Festival Libri Come dove mi trovo, ed è per questo che mi senti in collegamento telefonico oggi. Alessandra, il titolo è divertente, tu lo dici, ne parli con un sorriso, di cosa si tratta? E a chi lo consigliamo peraltro? Ti posso dire che ho riso come una pazza, ho letto questo libro in treno e iniziavo a ridere da sola, perché la storia vera di Fausto Brizzi e di sua moglie, insomma una donna bellissima, è stata anche finalista Miss Mondo eccetera, lei è vegana ma di quelle, come dire, naziste, nel senso che ha imposto a suo marito uno stile di vita vegano. Allora c'è tutta la storia molto ironica, lui ha un'ironia veramente strepitosa, racconta il primo appuntamento dove lui la porta in un ristorante di carne senza sapere che lei fosse vegana, poi a un certo punto lei dice appunto che è vegana e inizia a imporgli tutta una serie di cose per cui lui rimane assolutamente scioccato. A un certo punto, per esempio, lui chiede a lei: allora che cosa mangiate? E lei: tutto il resto, semi, cereali, legumi, frutta e verdura. Tu sai che noi umani abbiamo un intestino da erbivori e non da carnivori? Poi, per esempio, gli impone addirittura non solo la nutrizione vegana, ma anche l'abbigliamento, nel senso che un giorno iniziano a vivere insieme e lei scopre che lui ha dei maglioni di lana. Dice: oddio, hai fatto soffrire le pecore in questo modo per la lana. E quindi gli fa fuori tutti i maglioncini di lana e dice che si deve vestire solo di cotone e di lino. E devo dire che veramente se è tutta vera questa storia è veramente esilarante, nel senso che l'amore ti fa fare delle cose veramente che non avresti mai pensato prima, perché insomma Fausto Brizzi si è assolutamente, diciamo, adattato a questa filosofia vegana, anche se ogni tanto dice che quando la moglie non c'è lui qualche scappatella con una bella forma di parmigiano se la fa volentieri. Lo capisco, scappatella interessante. Alessandra, a proposito di libri divertenti, so che volevi segnalarmi un libro che, lo confesso, l'ho letto anch'io e che mi ha fatto sorridere. Beh sì, vabbè, è un altro libro di cui si sta parlando in questo momento, ed è il nuovo libro di Sophie Kinsella, I Love Shopping a Las Vegas, pubblicato da Mondadori. Confesso che l'ho letto perché l'ho rubato dalla scrivania di Alessandra, ma poi gliel'ho rimesso sulla scrivania, come certi libri che spariscono dalla scrivania di Alessandra Tedesco, e diciamolo. Io continuo ancora a reclamare il mio La Camera Azzurra di Simenon, che ho prestato a qualcuno ma nessuno me l'ha restituito, vabbè, faccio sempre questo appello. Comunque, tornando a Sophie Kinsella, beh, è chiaramente un libro molto leggero, si legge con piacere, però insomma è veramente da weekend leggerissimo. La protagonista è sempre Becky, stavolta si è trasferita a Las Vegas ed è quasi un I Love Shopping on the Road, nel senso che suo padre scompare insieme al marito di una sua amica, e allora insomma un gruppo di persone, tra cui appunto la stessa Becky, prende un camper e va alla ricerca, insomma è una sorta di on the road, come dicevamo prima, quindi si lascia un po' da parte la cosa di I Love Shopping, ma diventa un romanzo comunque piacevole da leggere, insomma sicuramente per ragazze, donne, diciamo, che amano più Sophie Kinsella più degli uomini, per un weekend di assoluto relax. Beh, devo dirti, io mi sono divertita lieve, come vedere una commediola senza pretese, sì, per passare qualche ora e staccare il cervello, dai, possiamo dire così. Se ti devo dire la verità, fra i due io sicuramente ho preferito Fausto Brizzi, Ho sposato una vegana, perché ormai, Marta, quando si organizza una cena, sì, tu devi chiedere, non sai così in genere cosa mangi, ma c'è il celiaco, c'è il vegano, c'è il vegetariano, e l'altra volta mi è capitato ad una cena la vegittica. Tu sai cos'è la vegittica? C'entrano i pesci, non lo so. Sì, sono i vegetariani che mangiano il pesce, e io ero andata in crisi perché non sapevo cosa mangiasse una vegittica, quindi sicuramente il libro di Fausto Brizzi, Ho sposato una vegana, è molto attuale, molto divertente, veramente consiglio a tutti quelli che vanno in crisi ogni volta che devono invitare qualcuno a cena. Alessandra, hai detto che sei a Roma, incontri in questi giorni a Roma previsti? Beh, guarda, qui a Librecome, a questo festival, insomma, ce ne sono diversi di incontri. Diciamo che l'incontro più atteso di oggi, ed è un libro di cui si sta iniziando a parlare perché è uscito da poco in Italia, ma che, devo dire, negli Stati Uniti se ne è parlato veramente tanto. Il libro si intitola Prima che torni la pioggia, l'ha scritto Elliot Ackerman, pubblicato in Italia da Longanesi, ed è appunto uno degli incontri più attesi qui a Librecome. Lui, lo scrittore, è al suo primo libro, perché lui è un ex comandante dei Marines, decorato per la seconda battaglia di Fallujah, combattuto in Afghanistan e in Iraq, e come suo primo romanzo ha deciso di raccontare una storia ambientata in Afghanistan, la storia di due fratelli, Aziz e Ali, dal punto di vista afghano. Quindi ci sono questi due fratelli che rimangono orfani, tra l'altro Ali viene gravemente ferito da una bomba talebana, e allora così suo fratello entra in una milizia afghana alleata con gli americani per vendicare il fratello. Quindi si vede tutto l'orrore della guerra, però è tutto raccontato da un americano che però si è calato nei panni, gli americani dicono in your shoes, nelle tue scarpe, nei panni di un afghano. E allora sentiamo proprio dall'autore, da Elliot Ackerman, perché ha deciso di raccontare questa storia da questo diverso punto di vista. For me, I think there's a real interest you have when you look back at. La cosa che mi interessava era ritornare indietro ed esaminare quegli eventi che avevano così definito e così plasmato la mia vita, e rendermi conto soprattutto che questi eventi avevano plasmato e definito la vita anche di altre persone, che guarda caso erano i miei avversari. Così mi sono reso conto che avevo più in comune con loro rispetto a quanto potessi avere in comune con gli americani che erano rimasti a casa e non erano andati in guerra. Dunque il mio libro è un'esplorazione dell'altro fronte della guerra. The novel is an exploration of the other side of the war. Alessandra, a chi consigliamo questo libro particolarmente forte e intenso? Guarda, io in questo momento veramente lo consiglierei a tutti, perché ci si rende conto di come la guerra, vabbè, sia stupida, ma Ackerman riesce anche a farti capire che si può avere compassione per il nemico. Tant'è vero che l'unico personaggio negativo di questo romanzo è un americano, e lui ha dichiarato più volte, dice, quell'americano ero io, perché ho provato a immaginare come gli afghani mi vedevano in quel momento, e invece lui adesso li considera come fratelli, perché poi ha combattuto accanto agli afghani, alle milizie afghane, e si è innamorato della popolazione afghana. Quindi insomma, per tutti quelli che veramente pensano che la guerra sia la più grande stupidaggine del mondo. Per chiudere, Alessandra, vorrei tornare un po' al tema del nostro sabato del villaggio. Il filo conduttore di questo sabato è stato genitori e figli. Hai qualche consiglio in proposito? Guarda, ho scovato un libro, e tra l'altro che viene presentato anche qui a Librecome, l'ha scritto uno scrittore sardo, Francesco Abate, si intitola Mia madre e altre catastrofi, pubblicato da Einaudi Stile Libero Big. Ed è praticamente la storia vera, sono tutta una serie di dialoghi fra lui e sua madre, molto verosimili, insomma, non è che sono inventati. Vengono divisi per temi, e all'interno di ogni tema questi piccoli dialoghi seguono un ordine cronologico, da quando lui era bambino a quando poi è diventato adulto. Adesso, per esempio, c'è il capitolo che si intitola La mangiatrice di tigri, perché sua madre viene così definita. Allora ti leggo brevemente questo dialogo. Mamma, sì, ma non è una contraddizione essere femministi e andare in chiesa? E chi l'ha detto? La maestra Ligias. Vieni qua, figlio mio. Sì, mamma, ascoltami bene. Sì, mamma, devi dire alla tua maestra che è una contraddizione essere zitella senza figli e pretendere di educare i figli degli altri. Hai capito bene? Certo, mamma. Tu ricordare che il nono comandamento è non desiderare la donna d'altri. Che cosa vuol dire, mamma? Fregatene, figlio mio, lo sappiamo io e la moglie del preside. No! Sarà un libro divertente, caustico, con questa figura di madre veramente non solo ironica, ma proprio, guarda, a volte sarcastica, ecco, caustica e sarcastica, non mi venivano gli aggettivi giusti. Oppure, se ancora 30 secondi per leggerti brevemente un altro dialogo, la mamma che si riferisce ai figli, che si rivolge ai figli: vi ho lasciato il pranzo pronto, ma che c'è, noioso, sono sulla porta e ho fretta, qui non c'è nessun pranzo pronto. Come non c'è? I pelati sono nell'armadio al lato del frigo. La pasta ve l'ho messa nello scaffale di destra e per l'acqua basta aprire il rubinetto, più pronto di così. Prontissimo! Quindi, insomma, altro che madri italiane che coccolano troppo i figli, queste sono veramente madri un po', come dire, ciniche, che però, insomma, nel libro sono veramente molto divertenti. Sono abbastanza favorevole. Alessandra, l'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri. Ricordaci quando. Se ve lo siete persi stamattina alle 6:30 perché stavate dormendo, come ogni tanto mi dicono gli ascoltatori, lo beccate stasera alle 22 e poi come sempre in podcast in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi giorno della settimana vi aggrada di più. Grazie Alessandra, buon Libri Come, ti aspetto la prossima settimana in studio. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. E dopo questa pagina dei libri ci ritroviamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, come sempre musica, TV, serie TV, cinema, in particolare per la musica, ve lo dico nell'ultimo spicchio, nell'ultimo quarto d'ora del sabato del villaggio festeggeremo il numero uno in classifica degli album appena uscito, subito arrivato al numero uno, Lorenzo Fragola. Tutto questo però nell'ultimo spicchio del sabato del villaggio. 349-238-6666 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, chiocciola Marta Cagnola, cancelletto ISDV per chi usasse Twitter. Adesso, al sabato del villaggio, è il momento di parlare di consumi. Mi piace Lana Del Rey, entra sempre in questa atmosfera così rarefatta. Mi piace questo pezzo, si intitola Art Deco, perché parliamo in un certo senso di arte, anzi parliamo nel vero senso della parola di arte, anche se di arte un po' particolare. Lo facciamo subito con Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, arte come mai in questo sabato? Arte perché anche l'arte è diventata molto più democratica, molto più pop per certi versi in questi ultimi anni, quindi molto più vicina al mondo dei consumi e alle sue logiche. Che per raccontare questa trasformazione io cito sempre un evento di riferimento, un evento di successo internazionale che ha rivoluzionato appunto il modo di concepire l'arte, rendendola democratica, aperta, accessibile, sia in termini di contenuto che di prezzo, mettendo proprio insieme i due aspetti. È una fiera nata alla fine degli anni 90 in Inghilterra, conta edizioni in molte città nel mondo ed è giunta al suo sesto anno anche in Italia. È Affordable Art Fair, si è aperta due giorni fa a Milano al Superstudio Più e chiuderà domani. Allora abbiamo in collegamento per farci raccontare tutto la direttrice Manuela Porcu. Buon pomeriggio Manuela. Buon pomeriggio, grazie mille per la presentazione perfetta. Allora, sesta edizione, il segno di una tendenza ormai radicata appunto, quella dell'arte accessibile, così? Diciamo di sì, diciamo che già dall'apertura, la nostra prima edizione è stata nel 2011, da allora ormai la tendenza di comprare arte contemporanea anche estesa a un pubblico più ampio si sta sempre più radicando e diffondendo. Il vostro claim, diciamo così, è arte da 100 a 6.000 euro, l'ho visto riportato anche nella campagna, nei manifesti che in questi giorni ci sono a Milano, è così? Sì, è così. Questi sono i range di prezzo delle opere che noi proponiamo in fiera. Le nostre 84 gallerie internazionali portano opere che partono da 100 euro, arrivano fino ai 6.000, ma di qualsiasi genere, tendenza artistica e tecnica. In quest'epoca in cui consumiamo velocemente tante cose, la tecnologia, i vestiti, sembra che ormai tutto sia diventato usa e getta, è ancora un grande piacere comprare un oggetto d'arte che ci accompagna a lungo e che possiamo tenere nella nostra casa per sempre. Manuela, è così? Noi siamo molto contenti di poter affrontare l'argomento arte contemporanea proprio inserito nella quotidianità della vita, quindi riportare l'arte alle nostre case, alla vita di tutti i giorni, e quindi la scelta di acquistare un'opera di arte contemporanea che non sia a scopo di investimento, quindi da nascondere poi in un cavò sperando che acquisti un valore domani, ma acquistare qualcosa che ci piace, che rispecchi i nostri gusti, che racconti anche qualcosa di direttamente di noi, che quindi possa essere vissuto quotidianamente. Sono cadute molte barriere nel mondo dell'arte, una su tutte la street art, ormai insomma è considerata arte universalmente. Lo è, noi siamo stati molto felici infatti di organizzare una sezione speciale quest'anno dedicata completamente alla street art. Abbiamo artisti molto conosciuti come Erika Icane con la Galleria di 406, ma abbiamo anche dei nuovi personaggi come David David, Ersk, Julien Durings con la Galleria Colorfield che è di Parigi e lavora con dei giovani street artist francesi, oppure una galleria molto particolare dell'Isola della Réunion con artisti Jace, Vast, Kid Creole e Boogie, che sono delle star nell'isola, in quest'isola così lontana da noi, che possiamo proporre e far conoscere direttamente in fiera e far approcciare anche visitatori un modo di collezionare la street art senza dover staccare le opere dai muri. E in effetti, non così praticabile. Manuela, ci sono anche molti giovani, quindi è un'occasione anche per i giovani artisti, non solo per chi vuole scoprire l'arte. Ogni anno noi organizziamo anche un'iniziativa speciale in cui selezioniamo con una giuria molto interessante i migliori artisti giovani che ci sono sulla piazza. Lo facciamo in collaborazione con il nostro partner Warsteiner, ogni giorno riusciamo anche a fare degli speed date in cui conosciamo direttamente questi giovani artisti e poi li vediamo all'opera ogni giorno durante le power, così da poter mostrare anche al pubblico come nasce un'opera d'arte, perché a volte non si riesce a capire quali sono le difficoltà, le precisioni, non è tutto solo pennelli e colori, ma ci sono tantissime cose dietro la creazione dell'opera. Tra gli artisti che voi citate nelle vostre note stampa ho letto di questo cinese Jackie Tsai, non so se lo pronuncio bene, noto per aver realizzato i famosi teschi floreali. Esatto, sì. Questa è una particolarità della nostra fiera, si riescono a trovare degli artisti internazionali che spesso non ci sono in altre manifestazioni, e questo artista viene portato da una galleria Eyestone che è di Londra, ma in realtà opera principalmente online, proprio con lo scopo, collabora con artisti molto importanti con lo scopo di rendere l'arte accessibile, quindi era perfettamente in linea con la nostra filosofia e siamo contenti di averla ospite qua, e ci sono le sue opere in fiera, quindi un'occasione, un artista da tenere d'occhio, un'occasione da non perdere. Tra l'altro ho letto che c'è anche un ciclo di lezioni di storia dell'arte, così bellissimo, ci facciamo... Sì, abbiamo già avuto le prime due lezioni, una bellissima lezione di inizio di Fausto Gilberti, dolcissima con i bambini sulla merda d'artista di Piero Manzoni, sabato oggi ci sarà la lezione di Flavio Caroli, quindi un altro momento da non perdere. Beh, bellissimo, io dopo la trasmissione verrò allora a fare un salto, molto bella questa idea di Affordable Art Fair, Super Studio Più Milano, chi fosse a Milano questo fine settimana, grazie alla direttrice Manuela Paorco, grazie Manuela. Grazie, a presto. Bella questa occasione, Maria Luisa, mi piace sempre quando ci fai conoscere queste occasioni Bene. Così particolari. Allora, tema della puntata, ci stanno tenendo compagnia i genitori e i figli, sì, festa del papà, ma noi parliamo di papà e mamme, genitori e figli li abbiamo incontrati in tante salse, continueremo a incontrarli, chissà se questo tema ha ispirato anche Cristina Lazzati, evochiamola. Buongiorno Cristina, ci sei? Buon pomeriggio, ci sono. Eccola, ci sono. Qua. Cristina, ciao, allora, Cristina. Ti ha ispirato qualcosa questo tema, genitori e figli? Assolutamente, essendo una mamma con due figli, peraltro di età completamente diversa l'uno dall'altro, mi ispira praticamente tutti i giorni questo tema. Allora, in questo caso però mi sono rivolta a una delle attività che io adoro fare con i miei figli, cioè viaggiare. È una cosa che mi piace molto, è sicuramente faticosa e sicuramente tante volte ho sperato che qualcuno mi venisse in aiuto. Quindi, ed è nata una startup, probabilmente le mie preghiere hanno avuto una risposta e nasce Tikidu. Tikidu è la prima piattaforma italiana dedicata ai tour per le famiglie. È una startup, sottolineo, quindi di fatto uno va sul sito e Milano, come dire, per il momento è un po' vuota, però in compenso su Roma ci sono delle cose molto carine, tipo la visita delle piazze del 500 con tutta la famiglia. Cosa significa? Significa che si paga una cifra, devo dire, non proprio a buonissimo mercato, tirerei un po' le orecchie ai signori, però insomma con 60 euro si fa il giretto, ti portano con i bambini, spiegando ai bambini quelle cose che magari tu sai ma non sai come dire, spiegargliele nella maniera più adeguata per far sì che loro si interessino, perché io ho portato in giro tante volte i miei figli, però quando hanno fatto il passo al cellulare erano sempre, quindi sul cellulare poco, a guardare per aria, la cosa è abbastanza irritante, soprattutto quando fai migliaia di chilometri per arrivare lì. Oppure quando sono piccoli la frase è quando torniamo in albergo, quando andiamo in piscina. Ecco, per evitare queste cose, magari informandosi e grazie a Tikidu, con anche una capacità didattica che hanno tutte le guide, sono in grado proprio di raccontare delle fiabe che hanno a che fare con la storia, che io trovo la cosa sempre bellissima. Ma proprio su questo tema sono andata a vedere ancora se c'è qualcosa di nuovo per consigli sul web, e vi segnalo due siti, ce ne sono anche molti altri. Uno si chiama The Family Company e lì vi consiglio di andare a leggere il post "I 100 viaggi da fare con i bambini prima che diventino grandi". E in questo senso vi consiglio assolutamente di andare a sentirli, perché è assolutamente una cosa da fare, perché si possono, c'è di tutto, dai, avete mai visto la transumanza con i vostri figli, piuttosto che le grotte di Frassassi, oppure il viaggio nel lago di, nella baia di Along di Vietnamita, insomma 100 cose, non tutte semplici dietro l'angolo, però sicuramente interessanti da fare. E poi bimbi e viaggi. E qui c'è un altro post che consiglio, che sono le 8 cose da non dire mai a una mamma viaggiatrice. Io queste 8 cose le ho sentite dire da tutti, e lì ci sono delle risposte, comunque ci si sente, come dire, in buona compagnia di altre mamme che sono state accusate di aver portato i loro figli piccoli in viaggio per 10 ore di aereo. Oddio, chissà cosa gli succede, assicuro, nulla. Beh, insomma, a volte la rete è anche rassicurante. Cristina, grazie sempre per i tuoi consigli. Devo dire che effettivamente anche su questo argomento hai sempre acceso delle lampadine particolarmente illuminanti. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. Buon sabato. Grazie a voi e buon viaggio a tutti. Ciao, è vero, buon viaggio. Chissà quanti si metteranno in viaggio ancora oggi, se non hanno ancora fatto le valigie per il fine settimana o per le vacanze di Pasqua. Maria Luisa, ultimo consiglio, quello di essere vere. Domani alle 22 non mancate. Al prossimo sabato. Ciao. Il sabato del villaggio. Oh, e come vi ho anticipato, adesso al sabato del villaggio è il momento di festeggiare un ragazzo giovane, giovanissimo, tra poco vi dico anche quanti anni ha. È uscito con il suo nuovo album ed è subito al numero uno, e siccome noi adoriamo avere al sabato del villaggio i numeri uno, eccolo qua. Brucia tutto nella testa, gela il sangue nelle vene. Sento come se hai paura, ma hai paura di star bene. Ci siamo amati in cima al mondo, soprattutto e sopra tutti. Quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero. Infinite volte ho detto che non avrei più vissuto nessun altro amore che non sia tu. Altre mille volte ho perso questa guerra con me stesso, ma non è bastato a non pensarti. Io sono pazza di lui perché è un ragazzo d'oro, un ragazzino, è nato nel 95, è veramente un ragazzino fenomenale. Un Sanremo andato benissimo, un album appena uscito con un sacco di belle cose, Zero Gravity, il titolo in inglese, ma i testi sono quasi tutti in italiano e lui è ovviamente italianissimo. Buonasera Lorenzo Fragola, ciao Lorenzo. Buonasera, ciao. Lorenzo, ti stiamo cogliendo in uno dei tuoi giri impressionanti per l'Italia. Oggi sei a Verona, allora in store, cioè i firmacopie sono delle belle occasioni per incontrare il pubblico. pubblico. Io stavo guardando dall'11 marzo, andrai avanti fino al 25 aprile, fai il Giro d'Italia tre volte, cioè sarai già distrutto adesso. Io non so come tu possa pensare di andare avanti così fino ad aprile. Dove le trovi le forze? Ma il problema è che finisci degli eventi, quindi da settembre, quando mi riuscivo a lavorare all'album, poi c'è stato Sanremo, poi c'è stato ovviamente uscire l'album, ora ci sono gli store, quindi in realtà è più che altro una pausa in generale che scarseggia, però va bene così, sono felice perché finché il posto in qualche modo è una cosa a cui tengo particolarmente, quindi oltre al lavoro però c'è il piacere di farlo. E il piacere anche, immagino, di incontrare i tuoi fan, che io già mi immagino cosa può succedere il 24 a Catania, il delirio che ci potrà essere nell'incontrare i tuoi coetanei, ma anche i tuoi amici, i tuoi fan nella tua città. Beh, ma sicuramente è un'emozione particolare, diciamo, Catania, però in qualche modo fortunatamente l'ho sempre vissuta bene, quindi come dire, la confessione è soltanto ancora una dimostrazione d'affetto, quindi mi fa piacere. Lorenzo, da 1995 dell'anno scorso a quest'anno sembri cresciuto non di un anno, ma di 2, 3, 5. Com'è stato quest'anno per te? Ma è stato impegnativo, ma sempre stesso modo costruttivo, perché comunque ho fatto una serie di esperienze che non capitano a tutti e quindi mi sento fortunato. Sono cresciuto tanto perché ho una diversa concezione di lavorare, del mondo del lavoro, ovviamente ti affacci con degli orari dello studio, no, non so, cioè anche con la gente, quindi è difficile in qualche modo all'inizio prendere il ritmo, dopo un anno ho avuto la capacità di in qualche modo a prendere il ritmo con tutto, quindi in qualche modo sono cresciuto molto velocemente e anche nell'album si è riversato questo cambiamento che prima di tutto è stato personale, quindi caratteriale. Detto questo, il lavoro dell'album è stato completamente libero e sciolto da ogni tipo di vincolo, non so, da paure, da ansia, da stress, quindi è stato un bel lavoro. Sì, il pezzo di Sanremo sembra alla fine, ascoltando gli altri, quello più rassicurante, quello da Sanremo, invece ti sei concesso anche cose ben più toste, ben più coraggiose nell'album. Sì, no, veramente il pezzo di Sanremo ci tenevo praticamente perché volevo che fosse un ponte dal primo album al secondo, in qualche modo il secondo è comunque un mondo tutto inedito, appunto abbiamo anche rischiato tanto in molti brani e quindi ci tenevo a fare un brano che potesse collegare per mano la gente e condurla, e quindi il pubblico me l'ha apprezzato e condurla al secondo lavoro. Infinite volte ha superato i 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dopo, a un mese da Sanremo, qual è il ricordo e la sensazione un mese dopo? Che cosa pensi di quell'esperienza? Ma sicuramente ci sono delle emozioni che mi portano, tipo l'apertura del festival, che è stata una grandissima occasione per me, per confrontarmi anche con mettermi alla prova. E sicuramente anche il fatto di cantare la cover di De Gregori, la sua delle cover, è stata una grande emozione perché era un pezzo difficile da portare sul palco, perché ovviamente essendo un pezzo che ama tanta gente hai sempre la paura in qualche modo di andare a toccare delle corde sensibili, però ci tenevo perché è una canzone che mi fa emozionare tanto e quindi sono felice di averla del risultato finale della canzone. In generale il Sanremo sono soddisfatto del risultato perché mi sono messo alla prova, perché sono arrivati anche tanti bei traguardi come quello di Seconda a Televoto, c'è tante sensazioni ed emozioni che mi portano per sempre. Tra l'altro De Gregori ti ha anche promosso e non è poco. Sì, no, sincero, De Gregori ha sempre speso belle parole nei miei confronti, non inaspettate e non dovute soprattutto, quindi mi fa veramente d'orgoglio, ci tenevo particolarmente, ripeto, perché è una canzone che amo tanto. Lorenzo, in questa puntata noi stiamo parlando molto di genitori e figli e tu hai fatto una cosa molto bella il giorno della Festa della Donna, festeggiando la tua mamma, che sarà sicuramente giovanissima, e festeggiando la sua laurea. È stata una cosa bella, emozionante. Tu hai detto che la tua mamma è il tuo modello, ha superato tante difficoltà, si è rimessa in gioco, sei orgoglioso di lei. Beh, è una dichiarazione di amore fantastica. E poi una mamma tostissima che si è laureata in psicologia. Sì, in scienze tecniche della psicologia, che io non sapevo neanche la dicitura in realtà, esattamente nel corso, perché no, cioè, paradossalmente io ho visto la laurea di mia mamma, non penso che le vedrà mai la mia. Però a parte questo, no, sono veramente orgoglioso di lei, perché in qualche modo non è facile mai rimettersi in gioco dopo tanti anni, soprattutto dopo aver ricevuto una bella batosta come quella di in qualche modo perdere il lavoro. Con lei tante altre persone, quindi famiglie che si sono ritrovate a un certo punto abbandonati anche dallo Stato, dalla regione soprattutto, e quindi non è stato, perché mia mamma era una dipendente pubblica, e quindi non è stato facile rimettersi in gioco. Sono felice che l'abbia fatto, al tempo tutti eravamo scettici in famiglia, perché ovviamente rimettersi in gioco all'università e riscriversi, studiare, fare gli esami e tutto quanto non è facile a 20 anni, non è soprattutto facile quando una persona ne ha molti di più. Come si chiama la tua mamma? Rossella. Ah, grande Rossella. Adesso quali sono i tuoi obiettivi? Tipo una vacanza magari addirittura, non lo so. Una vacanza . Sì, più di una spero, nel senso che sto cercando di far coincidere tutti gli eventi, tutti gli impegni in un unico periodo, così che mi possa liberare non so un mese. Mi piacerebbe viaggiare, ma sarebbe un sogno, perché non l'ho mai fatto per tanto tempo. Però la verità è che intanto penso a queste date, che sono per me molto importanti, perché è molto importante capire cosa arriva dell'album alle persone. Poi si penserà anche a un tour e vedremo. Io ho visto le foto dei tuoi in store, delle folle che ti aspettano, le ho viste sui tuoi social, è davvero impressionante, quindi io immagino che tutti ti stiano aspettando dal vivo. Beh, io non vedo l'ora, la verità è che è la parte più bella di questo lavoro, cantare ogni sera in una città diversa, vedere anche come il pubblico reagisce in modo diverso, è una bellissima sensazione, quindi non vedo l'ora di cantare. Però è una cosa che per me è molto importante, quindi ci tengo a farla con calma, a strutturarla e organizzare bene lo spettacolo, affinché, la verità è che vorrei uno spettacolo che sia molto divertente, dove la gente possa scatenarsi, e quindi voglio organizzarlo con calma e prepararlo al meglio. Lorenzo, grazie davvero, grazie di essere stato con noi. Allora, oggi a Verona, ma poi sulla sua pagina di Facebook c'è un elenco che non finisce più, anche perché continua ad andare da nord a sud, quindi non è che stai facendo da nord a sud o da sud a nord, vai avanti e indietro fino al 25 aprile, quindi veramente un grande in bocca al lupo. Un grande buon lavoro, speriamo che arrivi anche questa vacanza, e un abbraccio forte anche alla tua mamma, grandissima. Grazie a Lorenzo Fragola per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao. A presto, grazie. Ora che passo solo il tempo, rimetto in ordine l'armadio. È un po' come cercarti nel buio o tra la folla in uno stadio. Ora che il tempo passa lentamente, guardo le nostre serie preferite e mi chiedo se le già finite. Sai quanto vorrei dirti che in amore vince solo chi resta. E mai, mai ti direi ho cercato in un'altra, che la vita ci inganna, che non so più chi sei. Bravo, questo Lorenzo Fragola, tanto carino, tanto giovane, subito numero uno. Qualcuno mi ha preso in giro, Fabio Viapiana. Hai ragione, ho detto a Lorenzo Fragola, ti stiamo cogliendo. Vabbè, carina, stiamo cogliendo Lorenzo Fragola. Vabbè, io quando sono in diretta non è che sto tanto a pesare le parole, mi concentro su tante cose e a volte vengono fuori anche effetti comici. Dai, abbiamo colto Lorenzo Fragola, adesso cogliamo il GR24 delle 17, poi siamo ancora insieme con la terza ora del Sabato del Villaggio.